9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon lunedì 5 di settembre dal Gattaccio, che anche oggi farà appunto con voi e con i nostri ospiti, sentirà le vostre opinioni intorno alla manovra, bis, che di giorno in giorno cambia carattere e caratteristiche particolari delle sue misure e il dibattito politico che anima è conseguente. Occhio ai mercati, perché in questa settimana si alza il rischio che la reazione dei mercati manifesti una sfiducia crescente verso la coerenza, la congruità di questa manovra rispetto a ciò che ci ha chiesto la BCE oramai 4 settimane fa, in relazione all'anticipo dell'azzeramento del deficit al 2013 invece che al 2014. Le primi lanci d'agenzia alle 8.53 in relazione agli andamenti degli spread BTP Bund di oggi davano lo spread già a quota 340. Bisognerà vedere come evolve la giornata. E prima di presentarvi gli ospiti vi faccio un breve quadro, perché in questi 2 giorni ero a Cernobbio, che è il classico appuntamento della ripresa post-estiva per la comunità del business italiano, per le imprese, per gli imprenditori, per la finanza, per la banca, e di solito ci si confronta a porte chiuse con la regola di Chatham House, per cui appunto non si riferisce fuori ciò che avviene dentro, con i politici. Ovviamente al centro di questi giorni, lo avete visto se avete dato un'occhiata ai giornali, al centro di questa edizione di Cernobbio un fortissimo allarme che l'intera comunità dell'impresa, della finanza e della banca italiana ha rivolto alla politica, proprio perché la sensazione molto viva è che si sia perso un grande patrimonio di credibilità nelle ultime 2-3 settimane nel passaggio dalla manovra di luglio alla manovra di agosto, chiestaci sul tamburo dalla BCE e autoribaltata ogni giorno dalla maggioranza e dal governo, dando la visibile, tangibile impressione di non avere chiaro né il perché la manovra di luglio non fosse adeguata, quindi mostrando di non aver percepito la gravità della situazione, cioè mostrando di non aver capito che ci sono ragioni oggettive per cui l'Italia, primo emittente dell'euroarea, finisce a essere il banco di prova, la cerniera su cui tutta la forza del mercato mondiale si mette alla prova per vedere se tiene l'euro. E se quindi la BCE è in grado, rispetto alla nostra bassa crescita, rispetto al nostro alto debito, di comprare ad libitum titoli del debito pubblico italiano per sostenerli, malgrado il no ribadito dalla Germania, dal Presidente della Repubblica tedesco, malgrado il no condiviso all'interno del Consiglio europeo dai rappresentanti della Bundesbank e delle banche centrali austriache, olandesi e finlandesi, malgrado le botte in testa che Angela Merkel continua a prendere nelle elezioni locali, proprio perché appare troppo vicina al sostegno dei paesi eurodeboli, lei che a noi appare al contrario troppo aliena dal sostegno ai paesi eurodeboli, ultima quella che ha preso in questo fine settimana nel land di Mecklenburg-Pomerania, altra mazzata in testa potentissima e altra vittoria invece delle opposizioni. Per non aver capito questo e per aver rimesso mano ogni giorno a una manovra che cambiava caratteristiche, un giorno diceva di andare sulla sovraliquota IRPEF, l'altro su ipotesi patrimoniali, il terzo giorno diceva invece che l'ipotesi era quella di tenersi in a portata di mano l'aumento dell'IVA, il quinto giorno diventava il mancato riscatto di pensioni, lauree e specializzazioni per le pensioni di anzianità, che invece la Lega continua a non voler toccare, poi il sesto giorno è sparito anche quello, l'ottavo giorno è comparsa la lotta all'evasione, in questo fine settimana in commissione la lotta all'evasione è stata limata e oggi vi trovate sui giornali Berlusconi che dice che è suo il merito se i provvedimenti della lotta all'evasione, che chissà che ha messo, se non qualcuno del suo governo che guida lui li ha limati di nuovo e non sono così duri. Insomma, nella Cernobbio in questi 2 giorni tutti hanno chiesto alla politica: vi rendete conto che entro pochi giorni gli spread possono risalire oltre 400-450 punti e a quel punto il mercato si mette a fare il braccio di ferro contro la BCE e la BCE non ha la possibilità di andare avanti con acquisti illimitati dell'Italia? E a quel punto vi rendete conto che nel giro di un giorno o due le banche italiane non si finanziano più né in Europa né in Italia nell'overnight e quindi siamo in condizioni, per quanto inverosimile possa apparire rispetto ai fondamentali italiani di default? Cosa ci rispondete? Ecco, in sintesi estrema, tenete conto che quando Ferruccio De Bortoli ieri ha aperto i lavori con un appello molto duro, che avete trovato poi sul sito per chi fosse, quindi non sto rivelando niente di riservato, se ne è scesa la sala dagli applausi, pregando i politici di andare al dunque, di parlare di questo allarme, di come intendono rispondere senza mettersi a fare propaganda incrociata. E la giornata di ieri ha visto interventi di appartenenti politici di varie parti. Alla fine della giornata i presenti a Cernobbio erano abbastanza senza parole. Io l'unica cosa che mi limito a dire, per non violare la regola, è che, e lo faccio perché trovate un'intervista di Giuseppe Zadra, l'ex direttore generale dell'ABI, il quale, sentendo gli esponenti politici che dicevano che la crisi si deve al mondo, che non è la crisi dell'Italia, che non è possibile una crisi dell'euro che si incardina sull'Italia, eccetera eccetera eccetera, alla fine Giuseppe Zadra si è alzato e, un po' a nome di tutti, ha detto: beh, se queste sono le vostre risposte rispetto al rischio che noi ci troviamo nella palta, nella melma, nel giro di poche ore, con il mondo che ce ne chiede conto e con, a quel punto, il balbettio di non sapere cosa aggiungere per evitarlo, beh, ce ne andiamo tutti di qua con un allarme ancora più serio che sconfina quasi nel terrore. Ecco, a queste parole se ne è scesa la sala di nuovo. Naturalmente è chiaro che la comunità del business, della banca e della finanza ha un'idea sul tamburo un po' più grave di quello che avviene rispetto alla gente comune. Io mi rendo conto che a molti di voi potrà sembrare un tono troppo esagerato quello che sto usando, eppure io vi garantisco che il rischio concreto che noi entro un paio di settimane finiamo gambe all'aria, perché le forze del mercato che scommetteranno contro l'Italia per la tenuta dell'euro sono fortissime e sono in arrivo riunioni in BCE in cui si farà di nuovo la conta sul sostegno ai titoli italiani e spagnoli. Ebbene, questo rischio esiste davvero, è molto concreto, più forte di quanto per spirito di responsabilità i media non facciano capire agli italiani comuni, ed è su questo che va giudicata l'entità della manovra, l'entità dei tagli e della riduzione del perimetro della spesa pubblica e tutto il dibattito di queste settimane. Invece l'idea un po' è quella di concentrarci su molti particolari, come è inevitabile, ma perdendo di vista questo rischio, che è il rischio rispetto al quale la politica italiana ha l'elevata possibilità di apparire, non voglio dire completamente incapace di misurare il punto vicino al burrone in cui si trova il nostro paese, ma quasi, perché giustamente Renato Brunetta ci diceva: ma questo è un governo che ha moltissime qualità, perché doverci chiedere che noi li abbiamo portato vicino al burrone? E le risposte sono venute dalla sala. Renato Brunetta non lo diceva in polemica, lo diceva chiedendoselo seriamente, però il fatto oggettivo è che l'Italia si trova in queste condizioni. Allora, vediamo cosa pensano i nostri ospiti, ciascuno dal suo punto di vista. Nella manovra restano aperti molti problemi per quello che riguarda i tagli, soprattutto per gli enti locali, perché lo abbiamo seguito nel giorno della settimana scorsa, la protesta delle autonomie nei comuni e nelle regioni in questo questa volta davvero non comporta distinzioni di appartenenza politica, è una protesta molto unitaria, e dice al governo: dei 6 miliardi ulteriori che con la seconda manovra rispetto alla prima ci hai addossato, non basta togliercene 1.8, ce ne devi togliere anche gli altri 4. Comunque, in questa prima parte della trasmissione abbiamo con noi Mario Baldassarri, che è il presidente della Commissione Bilancio del Senato, FLI, la sua forza politica di appartenenza. Buongiorno Mario Baldassarri. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. E sono presidente della Commissione Finanze, abbia pazienza. Sì. E Flavio Tosi, lo conoscete, il sindaco di Verona. Buongiorno signor sindaco. Sì, buongiorno a voi. Posso cominciare dal sindaco Tosi chiedendo innanzitutto come la vede sul resto della battaglia delle autonomie contro i tagli aggiuntivi della manovra? Uno, due, però anche giudizi in generale su questa nuova versione, l'ultima, questa che promette ai comuni il 100% di ciò che porterete in più nella lotta all'evasione, e se la convince, se lei è tra quelli che sono convinti di questa accelerazione sul fronte della lotta all'evasione fiscale, fatta anche delle manette però per false fatturazioni anche senza dolo, cosa che preoccupa molto le imprese, fatte del fatto di considerare imprese schermo quelle che hanno solo 3 anni di perdita di seguito, come se non fossero migliaia purtroppo per la crisi in Italia. Insomma, ecco, un intervento in cui si parte dai comuni e si arriva anche a come è diventata la manovra rispetto a questo rischio. Signor sindaco. Ma guardi, che la lotta all'evasione è sacrosanta, ci mancherebbe altro. Su questo non ci piove. Sul fatto che i comuni riescano efficacemente a individuare degli evasori, magari in collaborazione con la Guardia di Finanza, sulla misura di questa possibilità ho qualche dubbio. Inserirla in finanziaria credo che rispetto alla BCE, ai partner europei, ai mercati, in finanziaria dovresti mettere delle entrate certe o delle riduzioni di spesa certe. in maniera tale che la finanziaria abbia dei numeri credibili. Se invece tu metti la lotta all'evasione e un'ipotesi di entrata da quella, rischi di rendere meno credibile la finanziaria, perché sono dati tutti da dimostrare. Era venuta fuori anche la storia di pubblicare online tutte le dichiarazioni dei redditi, e credo che, al di là del fatto che probabilmente c'è un problema di privacy, penso che serva piuttosto a pochino, perché io penso alla mia città, noi facciamo 270.000 abitanti circa, vorrebbe dire mettere online più di 100.000 dichiarazioni, e chi è che si mette a guardare 100.000 dichiarazioni, se si rischia veramente di fare una cosa demagogica che alla fine non porta a nulla. La cosa più normale sarebbe quella di copiare dei sistemi fiscali che altrove funzionano, penso agli Stati Uniti, dove crea il conflitto di interesse tra chi paga il servizio e chi vende il servizio o la merce o quant'altro, e quindi incentivi a stanare l'evasione, perché farlo con delle dichiarazioni, dei proclami, credo serva pochino, e ripeto, in finanziaria non sono cose che puoi inserire. Le cose che dovevano inserire, e per ora non ci sono, secondo me, almeno a mio modesto avviso, sono una patrimoniale che oggi, in una situazione attuale, ci sarebbe. Il contributo di solidarietà io l'avrei lasciato, perché è vero che un reddito di 90.000 euro non è altissimo, soprattutto su una famiglia, però 90.000 euro vuol dire intorno ai 4.000 rotti euro netti al mese, e quindi uno un qualcosina lo può dare, perché siamo in una situazione particolare, e lo Stato dovrebbe pensare a dismettere il suo patrimonio, almeno una parte. Il patrimonio dello Stato è immenso, mi pare sia stimato intorno ai 1.500 miliardi, se una parte in immobili o in partecipazioni lo Stato pensasse a dismetterle, non sarebbe male, anche perché quello andrebbe strutturalmente a ridurre il debito, che è il problema vero. Quindi ecco, penso che su questa manovra ci sarà ancora da riflettere, soprattutto, e questo l'ha detto la Confindustria, ma salta agli occhi, per il fatto che strutturale e soprattutto di stimolo per la crescita sembra ci sia poco, perché siccome è basata quasi soprattutto su tasse, si rischia appunto che sulla crescita ci sia poco, perché non tagli le spese. E poi perché, se resta questa impostazione, io ho l'impressione che fra 6 mesi ci troviamo a farne un'altra ancora di manovra, e a quel punto non so dove si andrà a raschiare, perché non c'è più da raschiare da nessuna parte. Temo anche prima, infatti, se i mercati volgono al peggio. Ricordo tutti che nella commissione in questi 2 giorni l'idea che molto aveva scaldato gli animi, che è stata appena ricordata dal sindaco Tosi, cioè quella della pubblicazione online nome e cognome delle dichiarazioni dei redditi, è diventata una pubblicazione senza nomi, quindi praticamente diventa una possibilità inutile, per essere chiari, a prescindere da come la si pensi. Io ero contrario, l'ho argomentato, mi sono beccato sul Fatto sabato un pezzo del pubblico ministero Bruno Tinti, che mi ha descritto come difensore degli evasori, chiedendosi quanti siano come Giannino. Mi è toccato rispondergli che io considero naturalmente l'evasione un reato, ma considero che lo Stato la debba perseguire, mentre considero che la pubblicazione online sia un invito semplicemente alla guerra sociale. E spiego perché. Io mi trovo nella condizione, come altre 4 milioni e mezzo e più di italiani, di non essere un dipendente. Io lavoro per i fatti miei, sono un libero professionista e, oltre alla mia partita IVA, ho 2 società, faccio presente a tutti coloro che mi ascoltano, a tutti i lavoratori dipendenti giustamente incazzati del fatto che il 93% del gettito IRPEF venga dalla somma di dipendenti e pensionati, che però, prima di mettere un Giannino alla berlina o di considerarlo un difensore di delinquenti e delinquente, come è stato scritto, chiedendosi quanti come lui ci siano in Italia, bisogna legittimamente considerare che, oltre a quello che paga in dichiarazione unico, bisogna aggiungere quello che paga sulle 2 sue società e per la partita IVA, e magari considerando l'idea che a quel punto ce ne sono 4 milioni e mezzo di posizioni fiscali come queste, cioè di società in Italia che non hanno nemmeno un dipendente sui 6 milioni di società italiane, di aziende italiane, e a quel punto considerando anche il fatto che, se ci sono cointestatari familiari, si splitta il reddito dell'impresa. Bisogna fare il conto di tutte le imposte pagate sul totale di questa roba qua, perché sono sempre imposte che pago io, prima di mettermi solo per l'IRPEF in un elenco e dire che sono un delinquente, amico di delinquenti. Questo è una delle obiezioni che io in tono piano faccio sempre a chi divide gli italiani, invitandoli a diffidare del vicino di casa, di chi sta sopra e di chi sta sotto, tra dipendenti ed autonomi. a prescindere dal fatto che ci sia un gravissimo problema, ovviamente, di evasione fiscale, questo io non dico di no, però attenti a credere che è col giacobinismo dal basso che noi lo combattiamo. Signor Sindaco, quanto invece ai tagli sulle autonomie, lei rispetto a ciò che le chiede la manovra aggiuntiva su Verona, come si trova a condividere l'opinione dei suoi colleghi che dicono troviamo oramai inevitabile tagliare servizi essenziali, è un po' esagerata la protesta, e come finirà secondo lei? Guardi, la protesta non è esagerata, perché se la manovra fosse rimasta quella iniziale, perché adesso quella è stata cambiata più volte, è difficile capire quale sarà la versione definitiva. Se fosse rimasta la versione iniziale, abbiamo fatto conto che come Comune di Verona dal 2008, quando ha cominciato l'ultima ondata di tagli, al 2013, quando finiscono gli effetti delle varie manovre, noi ci troveremmo con riduzione dei trasferimenti dallo Stato di oltre 50 milioni. Noi abbiamo un bilancio di 300 milioni, la parte mobile oggi, cioè la spesa non fissa, perché più di 100 milioni sono per il personale, e un altro centinaio rotti tra mutui e tutta una serie di spese fisse, insomma, che sono da sostenere. È chiaro che se ne tagli 53 con una spesa mobile appunto di poco più di 80 milioni, non sei più in grado di fare un bilancio, oppure non fai più nulla. E l'alternativa che ti verrebbe lasciata sarebbe quella di aumentare le tasse ai cittadini, quindi non sarebbe un taglio e quindi un risparmio di spesa, ma sarebbe semplicemente fare in modo che le mani in tasca ai cittadini, anziché metterci lo Stato centrale, ce le metterebbero gli enti locali. In realtà bisognerebbe cominciare a guardare, visto che si sta parlando finalmente in maniera compiuta di federalismo, anche i tagli agli enti locali, se proprio si debbano fare, che li si faccia con un'ottica federalista, cioè guardando chi spende i soldi, come vengono spesi, che servizi vengono erogati, quali comuni sono virtuosi e quali non lo sono. Se si comincia appunto ad applicare i tagli e i trasferimenti agli enti locali questo criterio, allora ci sto, cioè, se andiamo a guardare la virtuosità, allora ci sto, ma i tagli lineari che hanno tolto a tutti in maniera indifferenziata, così chi riceveva moltissimo adesso riceve un po' meno, chi riceveva pochissimo come noi adesso si trova la canna del gas, e bisogna ricordare, perché qualcuno pensa che sia lo Stato che elargisce risorse agli enti locali e adesso ne dà di meno, sono una piccolissima restituzione delle risorse che gli enti locali, io parlo perlomeno per la nostra città e per i territori con termini, delle grandi risorse che questi territori danno allo Stato, perché lo Stato a noi restituisce una piccolissima percentuale di quello che riceve. Benissimo, quindi sentite il giudizio del sindaco di Verona, vedremo in questi giorni lo sviluppo che avrà la protesta dei sindaci. Da quello che mi pare di capire, anche nel partito del sindaco di Verona, nella Lega, ci sono sensibilità diverse, ci sono molti parlamentari dei due gruppi Camera e Senato che in realtà, sia pure non avendolo manifestato esplicitamente per ovvio rispetto della coesione di maggioranza, ritengono che le richieste delle autonomie siano fondate. Anche il ministro interni ha fatto più volte osservare che nell'ambito del rispetto della tutela dei saldi, se fosse possibile aumentare la diminuzione dei tagli chiesti all'autonomia, lui sarebbe assolutamente favorevole. Comunque ringraziamo il sindaco di Verona. Veniamo al senatore Baldassare. Dal suo punto di vista, la risposta del ministro dell'economia, che dice che è falso chi argomenta, citando i dati dell'audizione Banca d'Italia, peraltro non inventandoseli, che questa manovra è fatta a 2/3 di nuove entrate e non di tagli alla spesa, quindi l'opposto di quello che ci ha chiesto la BCE. E come si fonda? Siamo come al solito sul fatto che non ci riusciamo a mettere d'accordo nemmeno sui dati minimi di una manovra, e lei come la pensa e come la giudica? Ma guardi, io ho ascoltato la sua introduzione, che a me sembra perfetta, e anche l'intervento del sindaco Tosi, che mi sembra altrettanto perfetto nell'inquadrare la realtà della situazione. Io proprio in questi giorni alla Commissione Bilancio, presieduta dal collega Azzolini del PDL, ho cercato proprio di fare i ragionamenti che avete appena fatto voi, e cioè richiamare, rispondendo anche all'appello del Presidente della Repubblica, richiamare tutti al senso di responsabilità, il governo, la maggioranza, le opposizioni, e soprattutto a partire dal tipo di manovra che è entrata al Senato e che più o meno, con tutta la girandola di cose che sono entrate, scomparse la mattina, la sera riapparse, eccetera, e che di fatto esce dalla Commissione di Bilancio del Senato ieri sera ed entra in aula domani. Ora, qual era la domanda alla quale i mercati ci chiedevano di rispondere? manovre strutturali di tagli delle spese, prevalentemente di tagli delle spese, con riforme strutturali e permanenti e sostegno alla crescita. Allora, la manovra è entrata in Senato, mi viene da dire con il lupo che perde il pelo ma non perde il suo vizio. Perché? Perché di fronte alla litania di parole, e cioè la crisi è mondiale, la crisi europea, continuiamo a non capire che certamente c'è una crisi mondiale ed europea, ma lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi esprime la crisi italiana dentro la crisi europea, e la responsabilità è fronteggiare da parte di tutti questa crisi, che è la nostra crisi. E allora di fronte a queste parole, le decisioni incorporate nella manovra erano sbagliate e restano sbagliate. Perché? Perché alla fine la manovra significa che dal 2010 al 2013 le tasse aumentano di 100 miliardi di euro. Questi 100 miliardi di euro di maggiori tasse dovrebbero servire per 75 miliardi di euro ad azzerare il deficit. Infatti l'anno scorso il deficit è stato 71 miliardi di deficit, nel 2013 il governo prevede di avere addirittura un piccolo avanzo di 4 miliardi. Per gli altri 25 miliardi di euro di maggiori tasse dovrebbero andare a coprire 36 miliardi in più di spesa corrente e 11 miliardi in meno di investimenti. Allora, una manovra così fatta, più tasse, più spesa corrente, meno investimenti, non può che avere effetti recessivi sull'economia. Non è solo il problema che mancano provvedimenti per lo sviluppo, purtroppo dentro la manovra ci sono provvedimenti che frenano lo sviluppo. E allora se ci domandiamo, questa manovra risponde a ciò che ci ha chiesto, che ci hanno chiesto le istituzioni europee e i mercati? Purtroppo no. Dopodiché quella che è uscita ieri dalla Commissione bilancio ha degli aggiustamenti. Ma gli aggiustamenti, come diceva il sindaco Tosi, cioè la Robin Tax, che era destinata per metà ai ministeri e per metà ai comuni, viene data tutta ai comuni per il 2012, quindi vuol dire che il taglio di spese, di trasferimenti ai comuni, si riduce un po', di circa 900 milioni, ma nel 2013 e nel 2014 quei tagli lineari e proporzionali, che è l'altro vizio del lupo, oltre a quello di riferire questi tagli ai valori tendenziali futuri, per cui non si sa bene se alla fine tagliano oppure addirittura aumentano la spesa. Quindi resta il problema degli enti locali. Il contributo di solidarietà, che è stato tolto, aveva il grande difetto di essere a carico soltanto dei tartassati, cioè di coloro che dichiaravano il reddito, ma quantomeno era riferito a redditi non alti, francamente, però insomma redditi che, come dice il sindaco Tosi, alla fine forse potevano anche un po' sopportare questo sacrificio. L'averlo eliminato con un gettito assolutamente fragile, basato sulla lotta all'evasione e l'elusione, basato sostanzialmente sulle viscate, cioè sul provvedimenti di vessazione, francamente rimane un po' scritto nell'acqua. Faccio un unico esempio, Giannino. Nella tabella della Ragioneria Generale dello Stato, che dà i numeri della manovra finale, c'è scritto alla voce implementazioni delle comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari, cioè le banche dovevano dare informazioni, ma lo fanno già. C'è scritto che questa cosa qui dovrebbe dare 156,2 milioni di euro nel 2012, che balzano a 545,7 milioni di euro nel 2013 e a 665 milioni ,4 di euro nel 2014. Ora, leggendo queste cose, uno viene da ridere. Esatto. Francamente. Io la ringrazio, senatore Basaglia, perché questo esempio concreto che ha fatto, cioè 112, 535 e 600 milioni, cioè il fatto che in tre anni c'è la bellezza di 1,3 miliardi di euro che vengono solo dal fatto di mettere in unico i rapporti con gli intermediari finanziari del contribuente, fa chiaramente capire, fa toccare con mano quello che noi diciamo, rilevando che questa manovra col cavolo che è in grado di produrre i saldi che davvero dichiara, perché queste sono cifre, proprio sull'esempio concretissimo che ha fatto lei, scritte sull'acqua. sull'acqua. Questo significa non avere l'idea dei tagli strutturali che mancano. Questo significa rispondere da balbuzienti, secondo me, a chi ha chiesto, io tra quelli, ma insomma Confindustria e tanti altri, dicevano: ma lo facciamo questa volta un intervento sulla pensione di anzianità, sui tetti, per l'accelerazione dell'allineamento tra tetti per trattamenti di anzianità e innalzamento tetti di vecchiaia entro 4-5 anni, tutto a 67 anni, per esempio, manovra che produce molti punti di PIL, non tocca le pensioni attuali, intergenerazionalmente è meno ingiusta verso i giovani che noi stiamo condannando a non avere praticamente nessuna pensione paragonabile a quelli di chi continuiamo a mandare in pensione prima di 60 anni per 25-30 anni nella vita. Eccoci qua, mentre abbiamo fatto la prima parte della trasmissione, intanto mercati in apertura sempre col segno meno, Francoforte sta a meno 2-4 quasi per la botta che ha preso il governo ieri, che ulteriormente apre problemi rispetto alla posizione tedesca in merito agli acquisti della BCE sui titoli dei paesi a rischio, cioè Italia e Spagna, dopo le polemiche la scorsa settimana in cui il Presidente della Repubblica Christian Wolff ha definito illegali gli acquisti della BCE, pregando il Presidente del Bundestag di sorvegliare sul fatto che le clausole di recessione e di recepimento del Trattato Europeo, secondo le quali nessun singolo euro deve uscire dalla Germania a favore di paesi dell'Unione Europea senza un voto del Parlamento tedesco, sia sempre vigilato. E il presidente del Bundestag gli ha dovuto dare ragione. Era di noi che si parlava, anche se non lo avete trovato sui giornali italiani. Nel frattempo, dicevo, lo spread BTP Bund è ulteriormente salito di 5 punti, 345 punti base rispetto ai futures che erano in area 329-335 dopo l'apertura, 10 punti base in più. Vediamo la giornata verso dove ci porterà, ma intanto il segno dei mercati finanziari europei è negativo. Quindi con ogni probabilità lo spread sale. Oggi vedremo fino a che punto. Sentiamo un paio di telefonate. Fabrizio che chiama dalla provincia di Roma. Pronto Fabrizio, che impressione ha? Sì, buongiorno dottor Giannino, la ringrazio di avermi chiamato. Io diciamo non volevo mettere il discorso sulla macroeconomia, su cui io non sono all'altezza diciamo di... No, ma qui raccogliamo le opinioni un po' di tutti su tutti i punti della manovra, quindi dica senza problemi. Io volevo parlare della deroga all'articolo 8, la deroga quindi al contratto collettivo nazionale di lavoro. Sì. Sono un dipendente privato da 25 anni, ho lavorato all'estero per grosse multinazionali americane e comunque da 10 anni a questa parte il peso della crisi e dell'inefficienza dello Stato si sta scaricando prevalentemente sui dipendenti privati, delle industrie e dei servizi. Questa io è la realtà che nel mio piccolo vedo. Con questa manovra, con questo decreto, si scaricherà ancora di più questo peso, mentre i dipendenti pubblici, io adesso non voglio fare guerra sociale perché ho parecchi amici diciamo, come dipendenti pubblici, ma effettivamente vedo una qualità di vita estremamente diversa tra noi e loro. Fabrizio, io la devo semplicemente per pareggiare il conto, devo ricordarle che per l'effetto delle misure delle due manovre, noi abbiamo il ritardo nel rilascio del TFR ai dipendenti pubblici, non ai privati. Abbiamo il contributo di solidarietà che è già vigente per i dipendenti pubblici oltre a soglia di 90.000 euro e invece, come ha visto poi nella manovra privata, è saltata. E quindi abbiamo il ritardo promozioni come disincentivo per chi dipendente pubblico vuole avvalersi delle finestre aperte per l'anzianità, che non vale per i privati. Quindi al contrario i sindacati sostengono forte nel settore pubblico che vale l'opposto di quello che dice lei, tant'è che io di solito nei dibattiti dico che queste misure però sul pubblico mordono di più, ma è anche vero che l'andamento dei redditi negli ultimi anni paragonati a parità di qualifiche ha visto premiati i dipendenti pubblici che i privati. Però la situazione è questa, non la volevo interrompere, però brevemente concluda. Assolutamente d'accordo con lei, l'ultimo pezzo è quello che ha detto, non è più vero che oggi conviene andare a lavorare nel privato, neanche dal punto di vista economico, io sfido chiunque a fare questi paragoni, anche perché ci sono anche spesso i dipendenti pubblici hanno dei servizi, no? Che comunque delle agevolazioni che fanno comunque parte di un reddito annuale che aiuta la famiglia e che comunque diciamo la qualità di vita che ormai è vero quello che ha detto lei, però è vero che loro non rischiano il licenziamento. Io preferirei che mi tolgono 1.000 euro all'anno, ma che so che posso portare posso fare una programmazione questo per me, è anche la mia famiglia per i prossimi 30 anni. Fabrizio, questo... comunque io le levo la parola perché abbiamo poco tempo. A tutti dico, è vero che oggi troverete sui giornali, anche negli ultimi giorni, ancora di più, perché ovviamente c'è lo sciopero generale che arriva della CGIL, su questo articolo 8. L'articolo 8 ha, secondo me, un punto di fondo, perché in realtà c'è in questa misura, l'ho già detto, mi è capitato anche ieri mattina, anche a TG3, l'articolo 8 in questa misura c'è perché c'era un'esigenza, e questa esigenza era coprire l'erga omnes e la retroattività degli accordi di Pomigliano e Mirafiori. Dopodiché si è ribadito quello che le parti sociali avevano già fatto per i fatti loro, dall'intesa interconfederale di 2 anni fa a mettere deroghe contrattuali fino a come si fanno i contratti aziendali con l'accordo del 28 giugno sottoscritto anche dalla CGIL. Questa è l'amara realtà, c'era un problema Fiat aperto, dopodiché è tutto ribadito e si aggiunge questa cosa della deroga alla possibilità anche dell'articolo 18. Solo nel caso in cui tutti i sindacati siano favorevoli, e quindi non capiterà mai. Ecco, io questo è quello che dico concretamente. Sentiamo ancora Enrico dalla provincia di Venezia. Prego Enrico. Buongiorno dottor Giannino, complimenti per la sua trasmissione. Niente, volevo fare un intervento breve sul discorso pagare tutti, pagare meno in relazione alle tasse, quindi evasione fiscale. Comprensibilmente osteggiato da lei, si capisce, perché dice non, magari non capiterà mai che poi lo Stato, una volta ricevuto tutte le tasse, riduca le aliquote. No, come è osteggiato da me? Io una vita che mi batto per la riforma fiscale, per la flat tax, sì, l'aliquota... Sì. No, ma non mi sono spiegato, nel senso che lei dice è un'utopia che si possa verificare, una cosa del genere. E io combatto per quell'utopia, lo si sappia però. Certo. Allora, dica. Ma io penso, ecco, volevo dire, si potrebbe realizzare, forse, da semplice cittadino, penso, un raggiungimento di questo obiettivo, facendo le due cose in maniera simultanea, cioè dopo certo. Appropriata propaganda, diciamo, della serie Homo visato, mezzo salvato, e contemporaneamente iniziare una seria lotta all'evasione, perché non si sta facendo in maniera seria. Ma insomma, io non lo so se non si sta facendo, stiamo beccando 25 miliardi in più quasi di ogni anno, non lo so che cosa vogliamo fare. No, comunque, veda lei, perché io quando tutti invocano la serietà, quello che dico io, Enrico, ho capito cosa dice, bisogna fare entrambe le cose, esatto, doveva farle il centrodestra è 17 anni che ha promesso che mi abbassava le aliquote e che impostava la lotta all'evasione fiscale su uno Stato più friendly, con norme meno oniriche, difficili da e meno onerose per le imprese e per i singoli da rispettare per ottemperare all'obbligo fiscale, e dall'altra impostando verso il basso le aliquote, qui rendendo più conveniente l'emersione. Io vedo solo che si è arrivati dopo 17 anni a fare proprie le cose di Vincenzo Visco, anzi a farle in maniera più ridicola di Vincenzo Visco, se posso dire la verità, molto più ridicola di Vincenzo Visco, con gli esiti poi di cambiare idea ogni 24 ore, perché questa è la cosa ancora più ridicola, che fa perdere credibilità, fatti loro, a questi signori con la loro base elettorale, che spero si ricordi delle stupidaggini a cui abbiamo assistito in queste settimane. Ma quello che è più grave, facendo perdere credibilità all'Italia in uno dei momenti più drammatici delle pieghe che la crisi mondiale ed europea appuntano proprio sulla debolezza italiana. Ecco, questo è il mio giudizio, quindi su questa roba qua, chi ha promesso per 17 anni ciò che non ha fatto e ciò che oggi sta ribaltando nel contrario nella questione fiscale, mi dispiace, su questo Giulio Tremonti anche ieri alla Cernobbio ci ha spiegato che l'idea che i ricchi non debbano pagare è sbagliata, eccetera eccetera. Non l'ho scritto io il libro bianco del 1994. Non l'ho scritto io, c'è la firma di un altro, non la mia, c'è la firma sua. Quindi evidentemente o per 17 anni non abbiamo capito che le elezioni prendevano i voti proponendo quello, oppure bisogna finalmente capire che quello che emerge è la linea del Ministro dell'Economia, che non è mai stata quella del centrodestra. Io propendo per questa cosa e non ci trovo niente di scandaloso, purché sia chiaro però ai componenti del centrodestra, ai suoi quadri politici, ai suoi elettori, e purché sia chiaro che poi questa roba è una roba un po' singolare, per così dire. Allora, posso chiedere un'altra opinione al volo a Mario Baldassarri rispetto a come prevede lui che la manovra invece abbia un esito rispetto a come stanno andando i mercati? Cioè, lui è di quelli che pensa che si può fare la crisi si può arrivare anche alla crisi dell'euro su una risposta di questo tipo dell'Italia, oppure dice no, è escluso, perché tanto poi alla fine forse hanno ragione i componenti del governo che dicono se dovessimo arrivare a questo con i tedeschi in 6 ore gli spieghiamo che non si può arrivare alla crisi dell'euro su un paese come l'Italia. Lei che pensa? Ma voglio dire, di fronte al rischio di un terremoto di grado decimo della scala Richter, è meglio prevenirlo che non cercare poi dopo di aggiustarne le conseguenze. E per prevenire questo, la possibilità c'è, Giannino, non ce la dobbiamo nascondere. La risposta dei mercati è stata molto chiara, sia venerdì, sia purtroppo anche all'apertura stamattina. E allora, ripeto ancora una volta, con senso di responsabilità, noi abbiamo presentato, io ho presentato come terzo polo, una manovra alternativa, offrendola al dibattito, alla discussione. Non c'è stata nessuna discussione. La manovra alternativa è molto semplice, in quattro punti. Primo, tagli verticali su specifiche voci di spesa che sono sprechi, malversazioni e ruberie, cioè i veri costi della politica, e non tagli orizzontali, al posto dell'aumento delle tasse. Secondo, lotta all'evasione. Ma chi si dichiara a favore della lotta all'evasione afferma una cosa come il vecchio catalano di televisiva memoria. È chiaro che siamo tutti a favore della lotta all'evasione, ma la cartina al tornasole è come la fai? Allora noi diciamo, io dico da anni, no alle vessazioni tipo Visco, che tra l'altro le sa fare meglio di Tremonti, francamente, sì al conflitto di interessi, alle deduzioni, e abbiamo proposto che ci fosse per esempio una detrazione con un tetto di 3.000 euro, una deduzione per tutte le famiglie, per le spese, per la casa, per la famiglia, cioè tutta quell'area che chiaramente sappiamo tutti è area sommersa e area nera. La lotta all'evasione si fa con il conflitto di interessi, con le deduzioni, cioè la famiglia deve avere interesse a chiedere la fattura e chi fornisce beni o servizi alla fine è obbligato dallo stesso cittadino ad emettere fattura. Terzo, le pensioni. Noi abbiamo proposto di allungare gradualmente ma ineluttabilmente l'età pensionabile di tutti. Quelle risorse devono essere in primo luogo messe per tappare i gravi, gravissimi buchi che sono tra i giovani e tra le donne, cioè sappiamo benissimo che il problema del sistema pensionistico italiano è l'allungamento dell'età e lo squilibrio tremendo, tragico, la spaccatura che si è determinata in tema pensionistico tra giovani e anziani e tra donne e uomini, perché le donne devono accudire la famiglia, devono crescere i figli, quindi hanno nella loro carriera professionale dei buchi enormi. Terzo, la vendita degli immobili, cioè prima di pensare a patrimoniali di vario tipo, che non possono essere escluse, ma prima di pensare al patrimonio dei privati, beh, lo Stato comincia a pensare al patrimonio proprio, lo metta in vendita e poi lo condisca con liberalizzazioni e privatizzazioni. Quinto e ultimo punto, che tra l'altro è l'unico punto che è passato in commissione, sembra con qualche attimo di terrore da parte dello stesso governo. L'abbiamo detto, ci sono circa 60 miliardi di euro di crediti delle piccole e medie imprese vantati verso tutte le pubbliche amministrazioni. Il Tesoro dice che lei a quel punto bisogna assolutamente cambiarlo, perché lei fa emergere il debito pubblico, fa sballare tutti i conti. Lei come risponde? Perché lei dice non è vero. Giannino, dicono una fesseria tremenda, perché noi non abbiamo mai proposto che domani mattina la pubblica amministrazione tiri fuori 60 miliardi per cassa di pagamento dei debiti. Abbiamo proposto una cosa molto più normale, molto più morbida, che non ha niente a che vedere con il debito pubblico. Intanto, chi sa di finanza pubblica sa che il debito pubblico si accumula in base al fabbisogno di cassa dello Stato, non al deficit di competenza. Quindi finché lo Stato non tira fuori un euro di cassa, non c'è nessuna modifica nella statistica del debito pubblico. Mentre lei propone che vengano scontati in banca, che diventino scontabili questi crediti. Quello che avviene normalmente tra privati, se io ho una fattura da riscuotere e il mio cliente mi accetta la fattura, perché altrimenti può essere pure una fattura falsa, me la sono fatta da solo, ma accetta la fattura, io con la fattura accettata del mio cliente posso andare in banca e se trovo una banca disponibile, la banca non è obbligata, ma me la può anticipare finanziariamente, si chiama factoring. Factoring, allora io su questo faccio stop con il senatore Baldassarri, ricordando che questo è un punto che riguarda decine di miliardi di euro di crediti per le imprese, è passato e andrà in aula, se passa in aula e venisse confermato anche naturalmente alla Camera, questo significherebbe lo sblocco di punti di PIL di crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione, quindi avrebbe una portata incalcolabile di liquidità rispetto all'intera struttura italiana. Sarebbe uno dei punti più rilevanti di tutta questa manovra. Naturalmente temo che non passerà. Abbiamo collegato con noi il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, uno dei, diciamo, interlocutori emergenti nuovi, come si vedeva dal bilancio immediato, dall'indomani del voto a Napoli. Allora, per questa conclusione, se riesco a parlare senza che mi interrompano, vediamo col sindaco di Napoli la sua opinione finale su come finirà la proposta dell'autonomia, il suo giudizio su questa manovra e che cosa manca invece per dare la risposta secondo lui migliore. Prego, sindaco. Buongiorno dottor Giannino e buongiorno agli ascoltatori. Questa manovra a mio avviso è iniqua e ingiusta perché per far cassa va a prendere i soldi dai soliti noti, quindi abbiamo ceti popolari, ceti medi, pensionati, e taglia agli enti locali. Anche paradossale perché viene fatta un governo a trazione leghista, dove la Lega ha sempre detto che dalle autonomie locali nasce l'economia, la politica, la democrazia diretta e la partecipazione. C'erano e ci sono, mi auguro che in Parlamento questo possa accadere nella dialettica tra maggioranza e opposizione, possibilità alternative. Una prima, scudo fiscale. La maggioranza e il governo nei mesi scorsi hanno approvato una norma che regolarizza, la dico sinteticamente, in qualche modo la reintroduzione in Italia dei capitali illecitamente portati all'estero. Inserendo la tassazione ordinaria per lo scudo fiscale noi potremmo recuperare una somma tra i 15 e i 20 miliardi di euro e quindi fare immediatamente cassa. In secondo luogo, in un momento di crisi a mio avviso si deve intervenire non sui ceti medi e sui ceti popolari, ma dobbiamo intervenire con una tassa anche straordinaria sulle rendite finanziarie alte, una patrimoniale, le speculazioni in borsa, la Tobin tax, come la vogliamo chiamare. Poi una lotta all'evasione seria, una ad esempio quella di stimolare i cittadini, lo è stato detto anche prima, la deducibilità delle fatture, degli scontrini, delle ricevute, questo è un fatto democratico che avviene in diversi paesi, consentirebbe quindi di abbattere fortissimamente l'evasione nel nostro paese. Poi voglio introdurre un dato nuovo che ho proposto anche io per evitare i tagli agli enti locali e per evitare anche che il patto di stabilità impedisca ad esempio di spendere miliardi di euro che sono bloccati nelle regioni per il patto di stabilità. Noi abbiamo chiesto di far sì che i comuni, gli enti locali, siano direttamente, ad esempio il comune di Napoli, ma può valere anche per altri comuni, direttamente ai cosiddetti organi intermedi, cioè direttamente attribuiti a loro le somme in modo che non devono passare per le regioni. In questo modo noi avremo la possibilità di spendere soldi, eviteremo la critica, certe volte anche giusta, che è stata fatta dal nord del passato dicendo che c'è una classe dirigente al sud che non è stata in grado ad esempio di spendere fondi europei. Ed eviteremo soprattutto la possibilità molto elevata di perdere fino a 9 miliardi entro quest'anno della quota che non utilizziamo dei fondi. Allora noi prendiamo l'impegno con il sindaco di Napoli di tornare con lui, perché l'abbiamo fatto parlare troppo poco oggi in questa trasmissione in cui stiamo già sforando, e quindi linea giornale radio, appuntamento a domani. 9 in punto.